Grazie per tutto quello che ha fatto, per tutto quello che farà e davvero ancora grazie di essere qui. Grazie, grazie Giacomo. Adesso c'è una piccola sorpresa prima di passare la parola al sindaco Massimo De Paoli. Quando alcuni sindaci del circondario hanno saputo, preso dal giornale, mi hanno chiamato e hanno detto: ma anche noi vogliamo dare la cittadinanza a Don Luigi Ciotti. E allora naturalmente io non ho potuto certamente dire di no, anzi la cosa non mi ha potuto fare che piacere. Per cui io vorrei invitare una rappresentanza, non tutti, in questo caso credo che rappresenti il sindaco Vignati di Inverno e Monteleone, portare il saluto un po' di tutti e la cittadinanza anche onoraria. Ricordo che sono presenti anche i sindaci o loro delegati di Linarolo, Costa dei Nobili e Montichiari di Pavia. Ringrazio il Comune di Pavia per questa opportunità. Ringrazio però tanto l'amico Vincenzo Vigna che mi ha fatto conoscere Don Ciotti quest'inverno a Corsico a una fiaccolata per una vittima di mafia. Io ho passato una bella serata, abbiamo camminato assieme con Don Ciotti e devo dire che quel momento mi ha cambiato una parte di vita amministrativa che pur va avanti da 11 anni. Io sono rimasto incantato da come esprimeva il suo concetto di legalità, da come era attaccato a quella legalità e l'ho portata immediatamente dai miei in consiglio. Noi siamo gli ultimi, perché siamo più vicini al territorio, siamo i paesi più piccoli, quelli a volte trascurati, ma quelli che possono intervenire direttamente con i propri cittadini. Noi ne abbiamo fatto un nostro motivo amministrativo, ne ho parlato con altri colleghi sindaci ed è per questo che sono orgoglioso di poter dire Don Ciotti è cittadino onorario di Inverno e Monteleone, di Monticelli Pavese, di Linarolo e di Costa dei Nobili. Che bozza, bene. Ahimè, purtroppo abbiamo anche esperienza delle cose che si fanno per la prima volta. Io adesso darei la parola al sindaco di Pavia, Massimo De Paoli, per il suo saluto e poi procederemo con la cerimonia. Grazie Vincenzo. Naturalmente siamo qui per ascoltare Don Luigi e quindi la faccio breve davvero. Beh, Don Luigi ti dico, qui c'è Pavia. C'è Pavia davvero tutta, nel senso che Antonio Sacchi ha già ricordato che il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità la concessione della cittadinanza. A me fa piacere personalmente che sia qui a rappresentare la minoranza anche mio predecessore Cattaneo. E qui c'è davvero Pavia, c'è la società, ci sono le associazioni, non li conosci, ma ti dico, dalle persone, vedendo i visi che ci sono, rappresentano davvero il tessuto della nostra città. Ci sono le autorità che ringrazio e saluto, non le cito individualmente per non fare torti, ma mi fa solo piacere. E siccome non dobbiamo fare una laudatio, perché non è quella la sede, poi perché Don Luigi Ciotti giustamente ci manderebbe a quel paese, e farebbe bene, per cui la retorica che è in agguato cerchiamo di scacciarla, di tenerla sotto controllo. Io mi limito a non a ripercorrere la vita di Don Luigi Ciotti perché non è necessario, e non credo neanche che gli farebbe piacere. Io posso solo dire questo, cioè quali sono i temi, i contenuti, le scelte che Don Ciotti ha fatto e che ancora oggi ci interrogano e ci spronano a lavorare su certi temi e su certi aspetti. L'unico ricordo personale che ci metto, lo dicevo anche in Consiglio Comunale, io Don Ciotti l'ho conosciuto anch'io a distanza, a un convegno alla Procivitate Cristiana di Assisi, era troppi anni fa, era, credo, se non ricordo male, 77 o giù di lì, testimonianza. Dopodiché lui venne anche nel liceo che io frequentavo e fu un bello shock. Erano gli anni in cui davvero, sì, purtroppo, molti giovani prendevano confidenza con l'eroina, e allora la testimonianza fu centrata soprattutto su quello. E la storia, in effetti, delle esperienze di Don Ciotti mi permetto di provare a cogliere qualche elemento, proprio questa, cioè dalla scelta di fondare il gruppo Abele, che secondo me si è contraddistinto rispetto a tante altre iniziative di vicinanza agli ultimi per un intreccio particolare, che poi ha trovato conferma nella storia personale di Don Ciotti, cioè l'intreccio tra la carità cristiana sicuramente, ma anche l'azione educativa, la dimensione sociale e politica e la proposta culturale. La sfida è stata quella di tenere insieme questi aspetti, cioè di non fare della carità semplicemente per puro spirito di vicinanza, ma anche provare a capire quali fossero i fattori e gli elementi che generavano l'esclusione. E da lì è partito un discorso che oggi forse noi diamo per scontato, ma l'idea che le comunità possano essere un'alternativa al carcere è nata con esperienze come questa. L'idea che si dovesse affrontare il discorso tossicodipendenze in una prospettiva appunto anche politica, economica e sociale è nata lì. L'idea tossicodipendenze e l'alcol, che è una piaga che, come sappiamo bene, è altrettanto e più grave, direi, delle tossicodipendenze. Ancora, l'idea che ci siano le unità di strada, il gruppo Bele fu uno fra i primi a praticare questa esperienza, e ancora un'altra idea che forse spesso non si ricorda, ma che lega queste riflessioni anche alla cooperazione internazionale, perché un altro tema di esclusione a livello planetario è quello che lascia indietro gli ultimi del pianeta, con conseguenze che viviamo giustamente, inevitabilmente, anche noi tutti i giorni. Ecco, come elemento flash, anche qui mi piace ricordare un'altra persona a cui credo e penso che Don Ciotti sia legato, cioè il cardinale Michele Pellegrino, che lo ordinò sacerdote, e anche lì ricordo personale, mi ricordo Pellegrino che è arrivato in Simca ad Assisi per fare il suo intervento sempre in quelle stesse occasioni. E poi altre cose che ormai hanno, altre esperienze che ormai hanno molti anni ma che sono importanti: la creazione del coordinamento delle comunità nell'82, la nascita della LILA, la Lega alla lotta contro l'AIDS, nell'86, e poi appunto Libera nel 95, ed è l'esperienza di cui oggi si parla di più, ma a me piace tenere insieme anche le altre. E si diceva del legame con Pavia, beh, per Libera il legame è fin troppo evidente, e mi fa piacere che sia qui testimoniato. Se Libera può gestire i beni confiscati alle mafie, è grazie alla legge che porta i nomi di Pio La Torre e di Virginio Rognoni, che è nostro ospite oggi. Di cui Pavia è altrettanto fiera. Non gli abbiamo dato la cittadinanza onoraria perché lui è cittadino pavese, e quindi... chiudo davvero. L'esperienza di Don Ciotti poi è quella anche di un giornalista, di uno scrittore. Anche qui scelgo un titolo di un libro suo, che è Persone non problemi, che è un grande titolo secondo me, perché ci ricorda comunque, lo ricorda anche a noi amministratori, che tutti i giorni parliamo di problemi, che abbiamo a che fare però con delle persone, e che è più difficile, però, che ogni persona ha una sua storia, e che quindi ogni problema ogni volta è diverso, e che quindi non esiste la risposta standard. Purtroppo le amministrazioni pubbliche poi sono costrette in qualche modo a elaborare risposte standard, però non ci dimentichiamo di questo. E infine, la cittadinanza onoraria che oggi consegniamo a Don Ciotti, lo voglio dire chiaramente, non vuole avere un significato di blandirlo o di lavarci la coscienza. Cioè, il rapporto che le associazioni, come quelle raggruppate in Libera, hanno con le amministrazioni pubbliche, è giusto che rimanga un rapporto critico, un rapporto per cui noi amministratori veniamo incalzati e veniamo richiamati alla responsabilità nelle nostre scelte. Questo deve essere la bussola. Quindi, se volete, la concessione della cittadinanza è anche un atto scomodo per noi, però è giusto che lo sia, perché altrimenti sarebbe semplicemente una scelta ipocrita, diciamo, e noi non vogliamo che lo sia. Sappiamo benissimo che la Lombardia, quindi anche Pavia, è interessata dal fenomeno della criminalità organizzata, così come dai fenomeni che abbiamo citato prima e dall'emergenza sociale che conosciamo bene. Su questo le realtà come il gruppo Bele, come Libera e come tutte le altre comunità continueranno a lavorare e se avranno bisogno continueranno a criticare anche ferocemente le istituzioni quando non compiono il loro dovere, e se lo faranno anche con noi, evidentemente, perché ne avranno ragione e motivo di farlo. Questo è lo spirito della concessione della cittadinanza e noi possiamo solo dire a Don Ciotti buon lavoro, richiamaci ancora al nostro dovere perché ne abbiamo sempre bisogno. Grazie. Grazie Massimo. Io non vorrei togliere nulla a tutte le autorità qui presenti, ma vorrei ringraziare Virginio. Grazie Virginio, carissimo, se vuoi fare un saluto, io penso che tu ne abbia più che diritto. No, sei pure seduto lì. No, prego, prego. Caro Don Luigi, noi ci conosciamo da una vita, ma essere, oltre che amico di Don Ciotti, vecchio amico, essere concittadino di Don Ciotti, c'è una certa emozione. Due parole soltanto, un'emozione pari a quella, Don Luigi, tu lo sai, che ha coinvolto e preso e occupato mio nipote, quando 2 anni fa venne a Caltagirone a coltivare pomodori o a cogliere pomodori in una cooperativa di Libera, giusto in terreni confiscati alla mafia. Io ho condiviso allora, quando Giovanni mi disse questa esperienza e la sua emozione, e avere qui come cittadino pavese Don Ciotti, quell'emozione si rinnova in me. Grazie a Don Luigi. Caro Virginio, io ti ringrazio per tutto quello che hai detto e per quello che hai fatto per Pavia. Adesso io direi diamo la parola a Don Luigi Ciotti. Grazie. Beh, sono io che sono un po' imbarazzato, un po' emozionato. Vi ringrazio di questo pensiero, ma vi posso garantire che questa sera qui a Pavia non è venuto Don Luigi Ciotti. Io sono qui fisicamente, ma lucidamente vi devo dire che tutto quello che si è costruito nell'arco di questi anni, 50 anni del gruppo Abele quest'anno, 50 anni quindi di strada, di poveri, degli ultimi dove io continuo a vivere, e 20 anni di Libera. Ma tutto questo è stato possibile con un noi, non con un io. Diffidate, vi prego, diffidate dei navigatori solitari. Abbiamo oggi più che mai bisogno di unire le nostre forze, le nostre intelligenze, anche le nostre passioni, anche le nostre fatiche. Dobbiamo unire le nostre speranze, perché il cambiamento ha veramente bisogno di ciascuno di noi. È noi che vince. È noi che vince. E quindi in questo senso io ricevo la cittadinanza, che però è il contributo che voi date a questo noi che si è costruito con tutti i problemi, le fatiche, le speranze. Auguro a me, auguro a voi una cosa importante: di non dimenticarci mai nella vita che i dubbi sono più sani delle certezze. E se trovate qualcuno che ha capito tutto, salutatemelo personalmente e cambiate strada. Perché siamo proprio piccoli piccoli e io mi sento proprio tanto piccolo, sapete? Ho cominciato 17 anni, non ero sacerdote. Sarà un povero sulla strada che cambierà la mia vita da adolescente. Frequentavo l'Azione Cattolica, la parrocchia, facevamo dei bei discorsi sui poveri, sugli ultimi, ma quell'uomo sulla panchina di Torino che cambiò la mia vita quando io andavo a scuola era un medico. Come nella vita di tutti improvvisamente può arrivare la tempesta che ti stravolge la vita. E allora io ero un medico che improvvisamente la tempesta gli ha sconvolto la vita, portandolo poi nella sua disperazione su una panchina della città di Torino. I barboni li chiamavano una volta, e sarà lui, a indicarmi in quegli anni dove non si parlava di droga in Italia, non se ne parlava, non esisteva la parola nel nostro paese. Sarà lui, medico, finito su una panchina con la sua disperazione, gli squilibri che si erano creati, che osservava da quella panchina il bar di fronte e vedeva dei ragazzi che entravano e uscivano in quegli anni usando dei farmaci e ci bevevano l'alcol sopra, e lui aveva capito, mi diceva, fanno la bomba, si drogano. E io dimenticherò mai quest'uomo, con le sue fatiche, le sue disperazioni, i suoi squilibri, ma anche con una sorta di lucidità, che mi disse, sai, io sono anziano, sono malato, dovresti fare qualcosa per loro. E una mattina andando a scuola, la panchina era vuota, non c'era più, era morto. E io ho sentito nel mio piccolo, perché sei piccolo, ieri come oggi, che quell'incontro non poteva essere uno dei soliti incontri. Ci sono degli incontri nella vita che ti segnano profondamente dentro. E allora in questo senso ho cominciato prima da solo, e poi tra anni dopo nasce il Gruppo Abele, che quest'anno compie 50 anni. 1965, e siamo al 2015. Come due mesi prima della strage di Capaci, io ero a Gorizia con Giovanni Falcone. Lui era distaccato al Ministero della Giustizia. Eravamo a Gorizia a tenere un corso di formazione per la Polizia di Stato sul tema della droga. Quell'esperienza che era maturata in quegli anni, che mi portò, perché sono le cose che uno cerca di fare, che mi portò anche in giro per il mondo, l'esperienza italiana, le prime comunità alternative alla strada. E con Giovanni Falcone, io lo dimenticherò mai, la sua puntualità, gli aspetti legislativi, la sua grande professionalità. E per me veniva chiesta la prevenzione, l'educazione, il problema delle famiglie, dei ragazzi, l'accoglienza. Guardate come sono importanti i segni nella vita, perché il giorno della strage, io ero in Sicilia, ero a tenere, era un sabato, quel 23 maggio 1992, a tenere un corso di formazione per insegnanti delle scuole superiori sul tema delle dipendenze. Che strani i segni, perché il 18 luglio, 57 giorni dopo, il 19 mattina ero a Palermo. Ero a Palermo per un lavoro dell'Unione Europea per gli insegnanti sul tema delle dipendenze. E lì senti la meraviglia di quelle terre e la meraviglia, in quel caso dei siciliani, perché sono gente coraggiosa e meravigliosa. Giovanni Falcone era un siciliano, Paolo Borsellino, quanti hanno perso la vita perché non si sono voltati dall'altra parte. E allora lì nasce di dire, ma non possiamo lasciare soli, dobbiamo essere vicino alle realtà che già facevano, a quanti già coraggiosamente erano fortemente impegnati. Però il problema delle mafie non è un problema che riguarda la Sicilia o l'Andrangheta e la Calabria. Forse le loro radici storiche sono lì, ma gli affari li hanno sempre fatti al nord. E voi ne sapete qualcosa, con l'operazione Infinita e l'infiltrazione mafiosa nella regione Lombardia, ma anche nei vostri contesti, che riguarda tutto il nostro paese, che attraversa il nostro paese. Allora in quel momento uno dice, ma la meraviglia, il sostegno, l'incoraggiamento, la vicinanza a quanti in quei territori sono impegnati, ma anche prendere coscienza che questo è un problema che attraversa tutta l'Italia, non solo. E non mi ero dimenticato le parole di Don Luigi Sturzo. Quando Don Sturzo, che fonderà poi il Movimento Popolare, poi la Democrazia Cristiana, disse allora, era il 1900, Don Sturzo disse, la mafia è più di Sicilia, ma la testa forse a Roma. E poi un'impressionante profezia di Don Sturzo, quando Sturzo disse, risalirà sempre più forte e più crudele verso il nord, fino per andare oltre le Alpi. La storia, il dovere di conoscere, il dovere di conoscere per diventare delle persone più responsabili. E non posso dimenticare 5 sacerdoti che in quel periodo storico sono stati uccisi per le stesse ragioni di Don Peppino Diana e Don Pino Puglisi. Ma la storia rischia di non essere conosciuta. Non posso dimenticare quando nel 1944 i vescovi della Sicilia diedero la scomunica. E qualcuno si è dimenticato di questo con un altro linguaggio, ma la sostanza, il senso, è dire che il Vangelo è incompatibile con la corruzione, con le mafie, con la violenza. C'è una storia che dobbiamo conoscere per diventare delle persone più responsabili. Ma Libera nasce all'indomani di tutto questo. Nasce all'indomani di tutto questo, prima nasce la rivista Narcomafie, cioè il gruppo Abele dice diamo una continuità, valorizziamo le realtà, stiamo vicino a quanti sono già impegnati. Il cammino non è stato così veloce a mettere insieme pezzi d'Italia. Oggi sono circa 1600 le associazioni nazionali e poi pensate ai presidi. Mi fa piacere salutare i miei amici di Libera in questa stupenda città di Pavia, ma Libera la trovate a Parigi. C'è una presenza di Libera a Parigi molto forte, a cui siamo vicini in questi giorni. La trovate a Londra, la trovate a Berlino, la trovate a Madrid, la trovate in America Latina, perché aveva ragione Don Sturzo che andrà oltre le Alpi, i giochi criminali mafiosi. E abbiamo detto, aspettano, adesso li freghiamo tutti. Andiamo anche noi. Si globalizza il crimine? O globalizziamo la presenza del mondo delle università, del mondo della scuola, delle associazioni, delle chiese, dei gruppi? E così è stato, sapete. E io con meraviglia vi devo dire questo noi. Perché è una meraviglia vedere un mondo, no? Di giovani, ma non solo di giovani. Perché Libera veramente è riuscita a mettere insieme mondi, contesti, percorsi diversi. Dall'Azione Cattolica Italiana agli scout della GESCI, ma anche della CINGEI, no? Dalla FUCI al Legambiente, all'ARCI, all'AUSER, all'Unione degli Studenti, ai movimenti di adulti, di anziani, dalla Chiesa Valdese, alla Chiesa Ortodossa. Non dimenticherò mai le parole di Carlo Maria Martini, quando ci diceva una cosa importante, mai come oggi. Ci diceva Martini, e voi lo ricordate molto bene, che Dio non è cattolico, è di tutti. Dio non è cattolico, Dio è di tutti, Dio ama tutti. E dobbiamo ribadirlo con forza, oggi più che mai, rispetto a tutto questo. Ecco, io ho cercato in questi anni. Io diventerò sacerdote che c'era già il gruppo Abele, la strada, le accoglienze. Poi nascerà il CNCA, il Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienze. La voglia di mettere insieme le forze e le energie, noi. E grazie perché hai ricordato quando è esploso il problema dell'AIDS, nasce la Lega Italiana Lotta all'AIDS, che ho accompagnato perché si accompagna, non si porta, ma si accompagna in un percorso per mettere insieme a un altro noi. Dobbiamo unire le nostre forze, perché solo unendo le forze degli onesti diventiamo una forza etica, sociale, culturale, politica, politica nel servizio proprio per tutti. Io ho due riferimenti, voi l'avete capito. Io il mio primo riferimento resta il Vangelo, il secondo riferimento è la Costituzione italiana. Ma vi devo anche dire, no, che c'è molta politica nel senso del servizio per il bene comune, c'è molta politica nel Vangelo, quando denuncia i soprusi, le violenze, le ipocrisie, e c'è molto Vangelo nella Costituzione, laddove stabilisce l'uguale dignità delle persone e il loro diritto a vivere in pace e giustizia. Ecco, per me che le due dimensioni si saldano fortemente insieme. E io ho avuto un caro amico, un vescovo che è morto giovanissimo, Don Tonino Bello, che arrivò un giorno a dire, quindi un vescovo, no? Innamorato di giovani e innamorato di Dio, quando Tonino Bello un giorno disse: non mi interessa sapere chi sia Dio, mi basta sapere da che parte sta. È qui che è importante. Siamo chiamati a stare da quella parte che vuol dire l'impegno per dare dignità a tutte le persone. La dignità che viene molto prima della legalità. Oggi la legalità è una parola che ce l'hanno rubata. Ci sono ladri di parole nel nostro paese. E una delle parole che ci hanno rubato è proprio la legalità. Noi ci abbiamo creduto e continuiamo a crederci. E tu fai bene essere l'assessore della legalità, ma devi aggiungere una parola prima. Perché solo così dà il senso del nostro tracciato. Perché è diventata la parola che ci hanno rubato, ci abbiamo creduto, ci abbiamo investito. Ma poi hanno scelto molti la legalità maleabile e sostenibile. Se mi conviene rispetto le regole, se mi conviene faccio gli affari miei. E in questi oltre 20 anni che ci siamo battuti per la legalità, è cresciuta l'illegalità nel nostro paese. E si sono permesse anche delle leggi che hanno calpestato la nostra Costituzione e la Carta dei diritti umani, come la legge sull'immigrazione anni fa. Però era legale, era servito per dare il consenso e la bella faccia a qualcuno, ma calpestava la libertà e la dignità delle persone. Ecco che la legalità ce l'hanno rubata, la trovate che oggi tutti la sbandierano, tutti parlano di legalità, tutti progettano legalità. Sì, noi siamo d'accordo che rispetto alle regole è importante e fondamentale, però vogliamo aggiungere e saldare con quello che ci sta prima, che è la responsabilità. La responsabilità, la responsabilità. La legalità è la saldatura tra la responsabilità, l'io, perché ci chiama in gioco singolarmente, e la giustizia, che è noi. La legalità non è neppure un valore, voi lo sapete, è un prerequisito, è lo strumento, è il mezzo per raggiungere l'obiettivo che si chiama giustizia. E la giustizia è l'obiettivo, la legalità è lo strumento, è il mezzo. Rispetto alle regole sono importanti, se non vanno bene dobbiamo metterci democraticamente insieme per cambiarle, ma l'obiettivo resta la giustizia, questo fame, sete di giustizia che a me, come a molti di voi, è così categorico nelle beatitudini. Ecco allora la legalità, la responsabilità che viene prima, ma prima della responsabilità ci sta la dignità umana. Noi siamo qui nel nome della dignità umana, della dignità umana. Questa mattina ho vissuto un'altra emozione. Nel cinema Barberini di Roma, con tanti ragazzi da ogni parte d'Italia, la proiezione del film che fra poco vedrete su Rai 1 questa sera. Il film, guardatelo quel film. Questo film è 100 minuti di riflessione. Graffia nelle coscienze, ci pone domande, ha un titolo molto semplice, Lea Garofalo. E questa mattina a Roma, con tutti i dirigenti della RAI, gli amici di Libera, soprattutto anche i ragazzi arrivati dal paese di Lea e di Denise, no? Con Marco Tullio Giordano, che ha voluto, è l'autore dei 100 passi, della migliore gioventù, ha voluto onorare questa donna, questa donna. Dove ho trovato in questo film il riscatto della dignità, che il riscatto della dignità è più forte del timore delle ritorsioni, delle minacce. Io Lea Garofalo l'ho conosciuta a Firenze dopo un incontro pubblico. Questa donna mi ferma mentre me ne sto andando, mi dice: per favore mi dia una mano, per favore mi dia una mano. Io non voglio che mia figlia venga travolta. E Lea per Denise non voleva che l'andrangheta le rubasse la vita come l'aveva rubata lei. Perché le mafie rubano la vita, la sequestrano. E lei aveva chiesto di aiutarla a riappropriarsi della propria dignità, della propria dignità, e di far crescere Denise, la sua bambina, in un mondo pulito. Sono donne che si rifiutano di ritenere quella mafiosa l'unica organizzazione sociale possibile, che rompono quegli schemi, che dicono basta. Il film di Lea questa sera, che mi auguro milioni di italiani vedranno, quello che ho visto questa mattina nel cinema di Roma, questi ragazzi, tutti questi ragazzi così presi, così attenti, così partecipanti, e mi sono chiesto ancora una volta qual è la molla che ha fatto scattare oggi tante donne. Sono le donne che stanno aprendo un varco all'interno delle organizzazioni criminali mafiose. Sono le donne. Ancora una volta le donne sono le grandi protagoniste. È la molla che fa scattare la ribellione e l'arrivo dei figli. È l'amore viscerale che produce la rottura. Dimenticherò mai Lea quando mi ferma lungo le scale a Firenze e chiede aiuto. E lì poi un avvocato, una bravissima avvocata di Libera, che l'ha presa un po' per mano per accompagnarla. Purtroppo sapete com'è finita, che il marito l'ha uccisa, che il marito ha dato ordine di uccidere anche la figlia, Denise. Che, però da questo... E l'ultima volta che abbiamo sentito Lea, noi l'abbiamo supplicata di non andare a Milano dal marito, perché sapevamo che l'avrebbe ammazzata. L'abbiamo supplicata. Ma lei era una sana testarda, carica di passione, di forza. E devo dire che le due attrici che rappresentano Denise e Lea sono stupende, sono bravissime, sapete. Certo non è Lea e non è Denise, per chi di noi l'ha conosciute, ma riescono a interpretare. E oggi piangevamo tutti, paradossalmente, gli stessi attori, a rivedere quello che loro hanno rappresentato, perché c'è qualcosa che ti prende dentro. Non è un film come tutti gli altri. E questa emozione ve la voglio comunicare anche a voi, perché non perdete questa sera questo film. Questo film la Rai ha voluto regalarlo a Libera. Dice: noi ve lo regaliamo perché possa attraverso voi arrivare a tutte le scuole d'Italia. La Rai lo manda in onda questa sera, ma poi faremo in modo che in tutte le scuole d'Italia, perché, ma non solo le scuole, perché veramente è un esempio di quanti sono stati capaci a trasformare il loro dolore in volontà di cambiamento. Sono le donne la punta più avanzata del risveglio antimafia nel nostro paese. E guardate, quando a Milano abbiamo fatto i funerali di Lea, di quelle ossa che fu bruciata, poi sono state ritrovate le ossa, perché finalmente il ragazzino che aveva avuto ordine dal signor Carlo Cosco di uccidere anche Denise, perché nel codice mafioso non può mettersi contro il padre, ha ucciso la moglie, poi voleva far uccidere. Questo ragazzo non ha avuto il coraggio di uccidere Denise. E poi ha trovato la forza anche di denunciare, di dimostrare dove erano quelli pochi che restava di quel corpo. E il film termina con l'immagine vera del funerale, con l'immagine vera del funerale. Sulla piazza Milano migliaia di persone ad accompagnare Lea Garofalo e Denise, che non era presente per varie ragioni, ma che da una finestra, da un posto protetto, aveva seguito tutto. E il film che vedrete termina con l'immagine vera, con i volti, le storie di migliaia di persone su quella piazza di Milano per dire basta e per dire che è possibile. E allora voi capite che c'è tanta gente oggi che non ha solo la volontà di cambiare campo, ma che vogliono veramente ritrovare ciò che le mafie hanno rubato loro, la libertà, la vita, la dignità. E allora è un problema di dignità, innanzitutto, poi di responsabilità. La legalità viene dopo, ma saldiamola fortemente insieme, impastiamola con tutto questo in questo senso. No. E questa sera guardatelo questo film. Io ho aperto la mia giornata a Roma e per me essere qui a Pavia è un filo che lega questi momenti, è un filo per me importante. Le donne. E pensate che a quel funerale, abbiamo scoperto dopo, c'erano delle donne che sono venute silenziosamente a vedere e poi anche loro hanno chiesto aiuto per rompere questi schemi. Sono convinto che questo film darà coraggio a tante altre donne a dire basta. E abbiamo chiesto alla politica un sistema legislativo che le tuteli, perché non sono collaboratrici, non sono testimoni molto di loro. Lei era una testimone, ma altri non sono nulla di questo, non hanno nulla da dare allo Stato, se non il loro impegno, che non vogliono che i loro figli devono crescere in quella cultura. Le stiamo nascondendo tante di queste donne, le stiamo nascondendo, perché se vengono beccate, vengono uccise, per sottrarre i bambini, perché i bambini devono crescere magari con i nonni in quella cultura, le stiamo nascondendo. Abbiamo chiesto alla politica quindi di trovare una formula, una terza via, non sono collaboratrici, non sono testimoni, ma che abbiano almeno il riconoscimento di cambiamento anagrafico, perché noi nascondendole dobbiamo fare degli intrallazzi per mandare i bambini a scuola con i dirigenti che ci danno una mano coprendoli, ma loro non possono lavorare con i libretti in regola perché li individuerebbero. E li ammazzerebbero. Ecco, allora che ci sono delle proposte politiche, c'è la voglia di darci da fare di più, e anche da Pavia questa sera per me è diventare cittadino onorario una grande emozione, ma voglio condividere questa cittadinanza onoraria con Denise, la figlia di Lea, e con Valentina, che non c'è più, tua figlia. E ho pensato a lei perché la nostra storia nasce anche da questo dolore, da questa fatica. Ed essere venuto qui per me, e questo noi, per me è importante e fondamentale. E un'altra mia cosa che voglio condividere con voi. No, non dimenticate quello che diceva Paolo Borsellino. Nel momento di massimo successo del contrasto alla mafia, il maxi processo, centinaia di persone alla sbarra, i giornali che titolavano tagliata la testa alla piovra. Paolo Borsellino, con grande saggezza, e certo i risultati erano grandi, grande lavoro, grandi arresti, e quindi momento di gioia, perché era un grande segno. Paolo Borsellino disse: perniciose illusioni. Perché disse che non bastano i numeri che cambiano, che si riducono, se non c'è quella continuità. Lui disse queste testuali parole, perniciose illusioni, riferendosi ai trionfalismi seguiti alle condanne del maxi processo a Cosa Nostra. E lui voleva sottolineare l'importanza e dare una continuità a tutto questo, perché ci rischiamo noi ad andare a stagioni, andare a momenti, andare ad emozioni. E voi sapete che le mafie sono tornate fortissime. E in questo momento di grande crisi economica e finanziaria, loro hanno tanto, tanto, tanto denaro e lo investono, lo riciclano. Loro ci sono. Qualcuno ha voluto dare nuova definizione alle mafie. No, non si danno nuove definizioni alle mafie. Si deve dare una nuova comprensione. Le mafie restano sempre le stesse nella loro essenza. Cambiano luogo, cambiano volti, cambiano nomi, cambiano anche strategie, aprono mercati nuovi, ma la loro essenza sono sempre le stesse. Quelle mafie che per raggiungere i loro obiettivi si avvalgono di segmenti di mondi che si prestano, segmenti di mondo politico, segmenti anche di mondo imprenditoriale, di quell'economia assassina, come l'ha chiamata Papa Francesco. Ecco, perniciose illusioni, siamo qui umilmente perché il morso del più ci appartenga a tutti, perché nessuno di noi dia mai nulla per scontato, perché non esaltiamo le cose ma neanche le sottovalutiamo, ma il dovere della lucidità, e soprattutto vi prego una grande passione per la verità, perché la verità prima della nostra intelligenza chiama in gioco la nostra coscienza. E voi dovete, mi insegnate, che il 75% dei familiari delle vittime innocenti di mafia in Italia non conosce la verità. E il nostro paese, le stragi, c'è solo una strage che conosciamo la verità da alcuni mesi, che è la strage del Piazza della Loggia di Brescia, ma delle altre stragi non conosciamo la verità. E allora abbiamo bisogno di verità, di lucidità, la voglia di conoscere, anche noi di evitare perniciose illusioni, di essere sempre vigili, sempre più attenti. In questo momento loro sono tornate molto forti, sono sotto traccia, fanno meno chiasso, forse meno rumore, ma loro il loro obiettivo, quello scopo è gli affari, anche se poi quasi tutti i giorni c'è una vittima di mafia nel nostro paese, che non fa neanche più chiasso, più rumore. Guardate a Napoli cosa sta succedendo, ma non solo a Napoli. E allora per vincere le mafie e la corruzione, e per costruire dignità, libertà, lavoro e giustizia sociale, occorre che ogni persona, ogni cittadino senta la responsabilità degli altri e del bene comune. Abbiamo troppi cittadini a intermittenza in Italia, a intermittenza. Abbiamo bisogno invece di essere cittadini più responsabili tutti, cominciando dalle piccole cose, ma responsabili sì. Responsabili sì. Occorre l'impegno, la sete di conoscenza e di verità. E voi mi insegnate che le verità passeggiano per le vie delle nostre città. Quante verità ci sono che passeggiano? Gente che sa, che ha visto, che conosce, che si è ripiegata su se stessa. Ecco, questo occorrono coscienze inquiete. Qui a Pavia, nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, riposano le spoglie del maestro dell'inquietudine Sant'Agostino. È stato un maestro dell'inquietudine Sant'Agostino. E mi fa piacere essere cittadino della città che lo accoglie. Cittadino di questa città che lo accoglie. E non posso dimenticare quando Sant'Agostino ha scritto quello che voi mi insegnate, che la speranza ha due bei figli, la rabbia, la sana rabbia, la rabbia come atto d'amore per le cose che si amano, e il coraggio. Sì, la rabbia nel vedere come vanno le cose e il coraggio di vedere come potrebbero andare. Dobbiamo animare la speranza, dobbiamo animare la speranza di una sana rabbia come atto d'amore e di coraggio. Il disgusto per ciò che vediamo deve tradursi in un fare di più e meglio, in un maggiore impegno e responsabilità. Ma ci sono sei parole che in questa città che mi accoglie, e ringrazio anche gli altri comuni della provincia di Pavia, mi sorprende, mi fa piacere, mi sento ancora sempre più piccolo, essere cittadino di diverse realtà che ruotano, e di questo vi sono grato. Ma ripeto, un noi è un noi, non è un io. Ma allora affido a me, affido a voi solo alcune parole, sei parole che mi stanno a cuore. La prima è la relazione. L'unità di misura dei rapporti umani è la relazione. Dentro le nostre città, dentro le nostre comunità, dentro tutte le nostre realtà, dobbiamo recuperare questa anima, la relazione. È l'unità di misura veramente dei rapporti umani. La seconda parola, l'ho già detta, l'ho ripetuta, è il noi. La terza è continuità. Il cambiamento comincia adesso. In realtà voi state lavorando da tanto tempo, però lo si costruisce nel tempo. Il tempo, nel tempo. Solo così il cambiamento emette radici, scava una traccia capace di durare, di resistere. Non so se capita anche a voi, è umana la stanchezza. Fa parte del cammino la sosta, il fermarci, guardarci dentro, riflettere, il prendere il fiato. Ma se camminiamo insieme, la stanchezza non diventerà mai scoraggiamento o disperazione, perché ci si aiuta, ci si mette insieme, si stimola reciprocamente. La quarta parola è la cultura. Pavia, città di cultura. Sì, perché è la cultura che dà la sveglia alle coscienze. La cultura vuol dire aprire gli occhi sulla vita, avere fame di sapere e al tempo stesso coscienza dei propri limiti. Siamo chiamati a esercitare anche una coscienza critica, che è poi quella capacità di discernere e ragionare che ci rende pienamente umani, coscienti dei nostri limiti ma anche delle nostre forze. E la quinta parola che mi sta a cuore è proprio politica. Ringrazio voi che con voto unanime, e questo mi dà tanta gioia. Mi dà tanta gioia perché ci sono degli ambiti in cui si deve camminare insieme. Bisogna che la relazione, il rispetto, l'attenzione ci accompagnano veramente insieme. Ho sempre creduto in quella politica che è veramente il servizio alla comunità. Ho sempre creduto in quella politica che è la tutela e alimento del bene comune. In quella politica che è costruzione di bene sociale. Se la politica non è questo, non è politica, ma solo gestione, solo conservazione e accumulo di potere. Invece vedere un voto unanime mi dà una gioia, perché abbiamo voluto che Libera fosse al di fuori di tutte le forze di quei giochi, anche se che etichetta, che ti prende per la giacchetta, che ti pianta lì, no, noi siamo al di fuori da tutto. Poi ognuno personalmente ha le sue ragioni, ha le sue motivazioni, ha i suoi riferimenti, ma la nostra associazione di associazioni al di sopra di tutto. Però è un'associazione impegnata nella politica, in quella dimensione che ce l'ha ricordata un grande Papa, Paolo VI, quando definì la politica la più alta ed esigente forma di carità, perché la politica è il servizio per il bene di tutti. E questo impegno non è solo di chi governa, di chi amministra, a chi deve rispondere a quelle scelte, a quell'impegno, ma l'impegno politico come servizio del bene comune ci chiama in gioco veramente tutti, cittadini responsabili, che sentiamo prepotente dentro di noi anche il nostro impegno politico per il cambiamento, per politica, quindi come servizio. E la sesta parola è l'uguaglianza. E forse oggi la parola più calpestata, ma è quella che dà veramente il contenuto alla democrazia. È l'uguaglianza che dà la forza, il contenuto alla democrazia, ai diritti, agli articoli della nostra Costituzione. E voi mi insegnate che non ci può essere democrazia e legalità se non a partire dall'uguaglianza delle persone, dal riconoscimento della loro dignità. Dalla dignità siamo partiti, alla dignità io chiudo la mia stima, la mia emozione, il mio grande, grande ringraziamento a tutti voi. Vi devo dire, quando tu hai ricordato Padre Michele Pellegrino, mi ha fatto estremamente piacere. Salutatemi il vostro vescovo, Monsignor Giudice Giovanni, anzi abbracciatemelo, me l'abbracciate. E arriverà Monsignor Sanguinetti, che prenderà quel testimone in questa nostra città di Pavia, in questa chiesa. Ma quando io sono stato la prima volta da Papa Francesco, gli ho portato un regalo. Infatti appena sono arrivato a Pavia con i ragazzi della polizia, siamo andati a prendere il caffè in una torrefazione qui dietro alla cattedrale, ottima, mamma mia che buono il caffè, e per i caramelle, c'era tutto lì, ma il caffè era buono. E allora ho pensato, quando sono stato a Papa Francesco, e ho pensato di portargli un regalo. A Torino c'è un piccolo bar in via Pietromicca dove entrano al massimo 6 persone, ma il caffè è eccezionale. E allora io, sono quasi 2 anni fa, passavo di corsa dal mio amico che ha questo piccolo baretto, gli ho detto, senti, devo andare dal Papa, questo mi dice, ma devo andare dal Papa, gli voglio portare un regalo. È una piccola torrefazione, e la gestisce un avvocato, lavorava alla Ferrero per i bambini la Nutella. E poi ha deciso lui e la sua signora di prendere in gestione questo storico piccolo baretto in gestione ed impegnarsi per la cooperazione, per dare una mano a tanta gente. E io passo e dico, senti, devo andare dal Papa, voglio portargli un regalo. Siccome il Papa è figlio di italiani, i suoi nonni sono italiani, il suo papà è un italiano, quando si va in giro per il mondo a trovare i figli italiani, eccetera, cosa gli porti? Un salame dei nostri, un po' di formaggio grana, e gli porti il caffè. Allora io mi porto via un pacchetto di caffè del mio amico del bar. Arrivo da Francesco e dico, senti, ti ho portato un piccolo regalo. Poi abbiamo lavorato insieme, dovevamo fare delle cose. 4 giorni dopo torno a Torino, passo il mio amico al bar, mi dice, il Papa mi ha scritto. 4 giorni dopo, quindi gli ha scritto subito. E allora gli ha scritto, il caro Don Luigi mi ha portato in dono un pacco del vostro caffè. Io me lo sono fatto, molto buono, grazie Papa Francesco. Perché vi racconto questo e arrivo a Michele Pellegrino? Perché voi capite come sono importanti i segni. E quando io parlo di relazione, di rapporti, perché la città è un organismo vivente, è un organismo vivente la città che ha bisogno per vivere del contributo di tutti, della corresponsabilità da parte di tutti. E a volte non abbiamo bisogno di grandi discorsi, di grandi parole, ma dei gesti, dei segni, degli sguardi, delle mani, che sappiano veramente la vicinanza delle persone più adulte, chi nella malattia. Penso a quelle famiglie dove c'è una persona diversamente abile che ha bisogno di sostenerle. Per i più piccoli è un organismo vivente, ci bisogna del contributo di tutti nella città. E il Papa gli ha scritto per ringraziare. La seconda volta che ho visto il Papa, 2 pacchi di caffè gli ho portato. E ho detto, vita che ti piace, te ne porto un altro. Da questo, e lì ho scoperto una cosa. A un certo punto Papa Francesco mi dice, ma lui sapeva già tutto, chi è che ti ha ordinato sacerdote? Perché io avevo già un gruppo, le comunità, le accoglienze, e lui lo sapeva, ma l'ha fatto apposta a chiedermelo, e padre Michele Pellegrino, e mi ha raccontato una cosa che mi fa piacere. Dice, lo sai che quando i miei nonni erano in grave difficoltà, ad aiutarli è stato un giovane prete di nome Michele Pellegrino. E quindi io mi sono ritrovato che quel vescovo che ha saputo accogliermi e che quando mi ordinerò sacerdote l'11 novembre del 1972, lui mi disse, c'era già il gruppo Abele, le comunità, lavoro nelle carceri per i ragazzi, con le ragazzine che strappavamo dal marciapiede, c'era già tutto questo e la chiesa si riempì di questo popolo. E Michele Pellegrino alla fine disse, guardando i ragazzi, dice, io so cosa pensate, che adesso prendo Don Luigi e lo mando in quella parrocchia, come si fa, no? No, no, no. Lui è nato con voi, è cresciuto con voi, io ve lo lascio. Ma anche a lui affido una parrocchia. E la sua parrocchia sarà la strada. Sarà la strada. Poi Papa Francesco, guardate, a un certo punto ci siamo messi a parlare. Gli ho chiesto, ma te la senti di venire a incontrare 1200 familiari che rappresentano altre migliaia? Perché ogni famiglia è numerosa, dei familiari delle vittime innocenti della violenza criminale e mafiosa. Lui non mi ha fatto finire, ha detto vengo. E io per correttezza gli dico, ma guarda che non è che tutti sono cattolici, perché molti hanno la loro storia, hanno altri percorsi. E lui mi ha aggiunto, che bello. E lui è venuto, lui ha abbracciato, è venuto, ha abbracciato 1200 familiari, ha ascoltato quell'interminabile elenco, lo ha ascoltato fino in fondo e poi ha fatto il suo intervento con una semplicità ma con grande carica di affetto e poi come lui sempre fa, il colpo di scena. Ogni volta lui ha un colpo di scena, ve ne siete resi conto. Perché lui ha 1200 familiari che gli hanno ucciso le persone più care, gli hanno strappati gli affetti, gli dà delle parole di affetto, di vicinanza, di incoraggiamento, gli invita ad assumersi ancora di più la propria responsabilità, userà parole dure contro le forme di corruzione. E poi a un certo punto dice, adesso voglio rivolgermi ai grandi assenti, agli uomini e alle donne delle mafie, convertitevi e cambiate. Ma Papa Francesco compie un gesto, lo stesso che chi ha più anni ricorda in Paolo VI, quando scriverà per la liberazione di Aldo Moro alle Brigate Rosse. E Paolo VI dice, mi metto in ginocchio. E Papa Francesco, parlando ai grandi assenti, agli uomini, donne mafie, convertitive e cambiate, dice, mi metto in ginocchio, convertitivi e cambiate. L'importanza dei segni. E lì il Papa, pochi mesi dopo, va nella piana di Sibari, dove sarò domani mattina in Calabria, proprio nella piana di Sibari, e dirà quelle parole che non dimenticatele mai. Quando Papa Francesco dice il vero cristiano dovrebbe sapere che le mafie sono adorazione del male e disprezzo del bene comune e chi adora il male è fuori dalla Chiesa. Il vero cristiano dovrebbe sapere. Noi facciamo finta di non sapere. Dovrebbe sapere che il Vangelo è incompatibile con tutto questo. E un anno fa esatto, a Re di Puglia, Papa Francesco è andato a gridare il bisogno della pace. È passato un anno, noi siamo qui a gridare con forza il bisogno della pace. Abbiamo bisogno di pace. E a Re di Puglia parlò della Terza Guerra Mondiale. Qualcuno si è scandalizzato, ma lui aveva ragione. Perché è sempre molto serio, attento, documentato, come dobbiamo essere tutti. Perché c'è in atto una terza guerra mondiale sulla faccia di questa terra. che coinvolge tante nazioni, tanti conflitti, tante situazioni. Però il Papa aveva aggiunto che non è fatta solo con le armi, purtroppo sì, ma anche con economia assassina. E quando voi pensate, sono le cose che voi mi insegnate, che l'80% dei semi che sono l'agricoltura, e l'agricoltura è cibo, e il cibo deve essere per tutti, quando l'80% dei semi della faccia di questa terra sono in mano a 5 multinazionali, voi capite che qualcosa non torna. E quanto negli ultimi anni ci viene dimostrato che sono saltati il 60% degli ecosistemi, beh, uno deve porsi delle domande. E quando, nel momento di grande crisi economica e finanziaria, no, le 300 persone più facoltose del mondo, l'anno scorso, solo loro, hanno guadagnato 524 miliardi di dollari, e noi siamo qui che tiriamo tutti un po' la cinghia, qualche domanda in più dobbiamo porcela. E quando la storia ci ha consegnato che i conflitti degli ultimi anni, no, il 40% dei conflitti interni sono stati fatti per l'acqua, per il sottosuolo, per la terra, beh, aveva ragione Papa Francesco. Mare di Puglia, Papa Francesco ha compiuto un gesto. Ha distribuito le lampade della pace ai rappresentanti di tutto il mondo, 300, e ha fatto una scelta, che l'olio nelle lampade della pace, che il Papa ha voluto, è l'olio di Libera, l'olio proveniente dalle cooperative che lavorano sui beni confiscati, le lampade della pace, sparse per il mondo, hanno quell'olio in questo momento che illumina, che voglia illuminare le proprie coscienze, no? È una scelta, capite l'importante dei segni? E infine, io il Papa l'ho rivisto, ovviamente, però una cosa che mi ha colpito, è la prima volta, dice, sai, io vengo a incontrare i familiari, vengo, e però, sai, mi fai una cortesia, mi mandi degli appunti. L'umiltà. Se mia madre fosse viva non ci crederebbe che il Papa mi ha chiesto gli appunti. No. Ma vi devo dire l'umiltà. E questo che volevo comunicarvi, l'umiltà. Io ho detto, certo che te li mando. Sai, perché io ho il problema delle mafie, non è che la conosca. La corruzione sì, ho avuto delle esperienze in Argentina non indifferenti, ma le mafie e quest'uomo, nella sua semplicità, che dice mi manda gli appunti, per me diventa un incoraggiamento per quello che mi permetto di dirlo a voi, perché abbiamo bisogno di conoscere, di non dare uno per scontato, di impegnarci di più, di unire di più le nostre forze. E poi lui mi ha raccontato quello che già voi conoscete, che i suoi nonni avevano già prenotato la nave per andare in Argentina. L'avevano prenotata, poi non ce l'avevano fatta, hanno disdetto la partenza, però ho visto Francesco triste in quel momento, perché mi dice, sai, la nave sulla quale dovevano salire i miei nonni con il loro bambino, che diventerà poi il suo papà, e la nave Mafalda, la nave è andata a picco, con centinaia di italiani morti, affogati. Non avremmo avuto Papa Francesco. E la nostra storia è prima della nave Mafalda, sulla quale dovevano salire i nonni e il futuro papà, e solo perché non ce l'avevano fatta, hanno rinviato il viaggio, non avremo Papa Francesco. Ma chi di voi ha più anni si ricorda della nave Sirio, andata a picco, con altri centinaia di italiani morti? Perché dico questo? Perché io credo che non dobbiamo dimenticare anche la nostra storia, le nostre fatiche, le nostre speranze. E oggi più che mai dobbiamo trovare la forza di unire le nostre forze, le nostre energie. Grazie, città di Pavia, di tutto questo. Grazie veramente. Io sono una piccola cosa, ma questa sera il Noi di Libera e del gruppo Avere, lasciatemi dire, è qui con me, con tanta forza e tanta gratitudine.